Bruno, buongiorno. Niente, volevo portare la mia testimonianza. Mi è successo recentissimamente, settimana scorsa, mi è arrivata una lettera dalla Germania, dal loro INPS, che praticamente mi dice, con una lettera scritta in tedesco e ogni tre righe tradotto in italiano, mi si dice: tu hai lavorato, infatti nel 65 sono stato in Germania a lavorare come emigrante, e in regola, tutta. A loro risulta che io per circa un anno, non ho compiuto l'anno, ho lavorato presso di loro e mi dicono: tu stai per compiere 65 anni, quindi hai diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia. Ti preghiamo, mi hanno allegato un modulo apposito, ti preghiamo di compilarlo e di mandarcelo, anche se tu non avrai diritto, ci farai una cortesia perché noi definiremo la tua pratica e quindi a quel punto lì ti diremo se ti spetta qualcosa, se non ti spetta. Questo a confronto di quello che fa l'INPS, cioè che deve andare lì e fare delle file chilometriche per pietire un'informazione. Questi prima della scadenza del 65esimo anno mi hanno scritto, ma mi hanno rintracciato dopo 42 cambi di indirizzo che io ho fatto. Ma sono tedeschi, Bruno, mica scherziamo, è chiaro. Sì, sono tedeschi. Sì, queste sono le cose che noi meravigliano, che ci sembrano assurde, ci sembrano impossibili. Io sono rimasto commosso da questa precisione teutonica e da questa efficienza. Però scusi, in assoluto un apparato burocratico così deve funzionare, deve avere la sicurezza di un database informatico. Certo, se lei da qualche certo. parte risulta, la parte deve essere chiusa, la sua pratica. Chiaro, se lei ha versato, devono capire che fine abbia fatto. Questa certo. è quello che dovrebbe essere comunque una burocrazia. Noi abbiamo dei modelli sfilacciati, slabbrati, che ormai fanno parte del nostro DNA, che basati sull'aggiustamento, sull'intervento personale, sulla telefonata del funzionario che si conosce. Quindi troviamo grande meraviglia, come se vedessimo una sorta di miracolo improducibile a latitudini umane, ma in realtà è così.